Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati a Fuori di Noi, frequenze di Blu Radio Veneto, per una nuova puntata, una nuova, diciamo, occasione per parlare di oratorio e di mondo giovanile. Ai microfoni Anna Zampieri della CR Diocesana. Ciao Cristian. Ciao Anna. Anna ci segue da parecchie settimane, ormai non lo ripeto più perché ormai è ospite fisso, co-conduttrice appunto di questa trasmissione, perché appunto stiamo portando avanti non soltanto, diciamo, il tema oratoriale, ma anche il tema della CR, perché i ragazzi che entrano in oratorio sono i ragazzi appunto della CR, anche i ragazzi della CR, quindi ci sembrava bello creare questa collaborazione che abbiamo già realizzato l'anno scorso e che quest'anno appunto rinnoviamo, una collaborazione che non è soltanto appunto frutto, diciamo, di una trasmissione radiofonica, ma di un cammino appunto che si sta facendo insieme all'interno della Diocesi di Treviso, come stiamo ascoltando anche attraverso le interviste che facciamo di settimana in settimana, come stanno facendo tutte le altre realtà, perché solo insieme appunto si riesce, diciamo, a vincere quella sfida educativa di cui in questo periodo si sente tanto parlare. Vero Anna? Verissimo. Anna, sei contenta di essere qui a Fuori di Noi? Sì, sì. Ecco, grazie, nonostante mille la mia presenza, allora Anna. No, certamente, grazie, è una bella opportunità, una bella esperienza per me. Ecco, si dice così e dopo dice potrei essere da un'altra parte, ma in questo momento no. So che appunto sei molto affezionata appunto al programma, a, diciamo, anche alla possibilità appunto che questi ragazzi stanno, diciamo, in queste settimane realizzando, cioè vengono qua in studio, raccontiamo un pochettino Anna, vengono qua in studio, cosa fanno? Allora loro registrano appunto un loro contributo che ha come tema appunto la rubrica In oratorio si punta in alto, e allora vogliamo che loro raccontino una loro esperienza, attività che hanno fatto durante il cammino dell'ACR dell'anno e in cui hanno conosciuto e incontrato più da vicino Gesù. E questo è anche un'occasione per raccontare anche che certamente gli oratori fanno tante belle attività, la CR fa tante belle attività, il cammino formativo è diverso, le modalità sono diverse, ma lo scopo, o meglio il punto di riferimento, è sempre quello, cioè i valori evangelici, la figura appunto di Gesù che viene raccontata, trasmessa in qualche maniera, anche descritta con appunto diverse metodologie, con tanta creatività, con tanta fantasia, ma anche ritornando un po' alle origini. Quindi immagino che la CR possa fare delle attività legate a cartelloni, legate appunto anche a momenti di preghiera, così come l'oratorio appunto apre le sue porte all'interno di ambienti che non sono nati per caso, per la volontà di qualcuno, ma sono stato, diciamo, anche frutto di un cammino pastorale, un cammino anche, diciamo, di fede di alcune persone che si dedicano agli altri. Gli altri che sono all'interno dell'oratorio non soltanto i bambini della CR, ma che ovviamente sono un po' i protagonisti, ma anche gli adulti, le famiglie e anche i nostri anziani. Quindi salutiamo veramente con gioia tutte le persone che frequentano gli oratori e salutiamo in maniera particolare anche i bambini, i ragazzi della CR protagonisti di questa settimana, che sono i ragazzi di Silea. Cosa hanno fatto già i ragazzi di Silea, oltre a, diciamo, a donarci questi contributi, a registrare appunto qualche contributo all'interno di Fuori di Noi? Hanno scelto anche qualcos'altro? Eh sì, hanno scelto la canzone, anzi le canzoni da mandare in onda che vorrebbero ascoltare. Quindi vogliono portare via appunto il lavoro al nostro regista Eddy Daici, che salutiamo e che ringraziamo anche per questa ennesima presenza, e quindi diamo spazio e voce alla prima canzone scelta dagli amici della CR di Silea. Benvenuto con Laura Pausini. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che I'm in macchina. E benvenuto sia questo lungo inverno, semmai ci aiuta a crescere. A chi ha coraggio, a chi ancora non ce l'ha. Non potevano scegliere la canzone migliore per iniziare questa puntata. Benvenuto di Laura Pausini, scelta dal gruppo ACR di Silea, che è protagonista di questa puntata. Ascolteremo i suoi contributi però nella, diciamo, terza parte del nostro programma. E quindi rubo un po' il titolo di questa canzone perché in linea abbiamo già un ospite. Quindi benvenuto Luca Donazzan del Circolo Oratorio Noi con Voi di Romano Dezzelino. Ci sei, Luca? Sì, ciao. Ciao Luca, ciao. Ecco il nostro ospite. Ogni settimana noi intervistiamo una realtà diversa, non soltanto della diocesi di Treviso, ma andiamo a Venezia, Vicenza, Padova. E infatti il protagonista di questa settimana è proprio una realtà oratoriale Noi della diocesi di Padova. Allora Luca, presentati un pochettino, presenta un po' il circolo, chi sei, che ruolo svolge all'interno di questa realtà oratoriale padovana. Allora, sono Luca, appunto, presidente dell'associazione Noi con Voi, che gestisce il centro parrocchiale di Romano Dezzelino. L'associazione è stata costituita nel 2008 e dal 2009 ha incomodato d'uso il centro parrocchiale, nel quale organizza iniziative culturali, sportive, si occupa della gestione del bar. Ha un direttivo che è formato da 11 persone all'interno del quale abbiamo suddiviso appunto in tre commissioni che si occupano delle varie iniziative da proporre. E quali sono le vostre principali attività? Diciamo che le attività principali le dividerei in due ambiti, nel senso l'aspetto culturale con una rassegna teatrale che è già da qualche anno appunto che è attiva, uscite anche al di fuori del centro parrocchiale, quali una biciclettata in Valsugana, abbiamo partecipato all'Arena di Verona, alla Ida, diciamo, abbiamo fatto dei corsi di sopravvivenza di spagnolo nel periodo estivo. Abbiamo fatto delle uscite, insomma sono varie le iniziative che proponiamo. All'aspetto sportivo abbiamo organizzato appunto dei tornei di calcetto a 5 nel campetto polivalente, e abbiamo collaborato con la parrocchia nella sagra parrocchiale, nella festa votiva della Madonna del Buon Consiglio in Valle Santa Felicita. Ecco, queste sono un po' le varie iniziative in sintesi che proponiamo alla comunità. Molto bene Luca, dimmi una cosa, ma perché ha senso che all'interno appunto della comunità della parrocchia di Romano Dezzelino ci sia un oratorio? So che avete anche un bellissimo sito, perché appunto io ho anche qualche vostro volantino, diciamo, che illustra alcune vostre attività che tu hai già un po' accennato, ma sì. L'oratorio in parrocchia ha ancora senso? Cioè tutte queste persone, risorse di tempo, economiche da investire, e che investite? Dove vedete, diciamo, i risultati? Cosa vedete? A Romano Dezzelino con l'oratorio c'è qualcosa in più, dove, secondo te? Ma guarda, secondo me ha senso di parlare di oratorio nel momento in cui mettiamo al centro la comunità cristiana. Nel nostro caso, giornalmente, ogni giorno, voglio dire, al pomeriggio il centro parrocchiale è aperto e abbiamo anziani, abbiamo giovani e bambini che lo frequentano, per cui è un punto di riferimento all'interno della comunità cristiana, insomma, per cui nel momento in cui si è andati a costituire l'associazione c'era proprio la necessità di riportare questa struttura come punto di riferimento all'interno della comunità cristiana. Ecco, l'oratorio, credo abbiamo detto praticamente in quasi tutte le puntate di Fuori di Noi, che è anche un cammino, diciamo, un cammino che la comunità, come tu ci hai appena detto, fa perché appunto ritiene necessario, indispensabile avere questo tipo di ambiente. Ma l'oratorio non è anche un ambiente, è uno stile, forse, diciamo, anche una parola grossa, ma che non è fuori luogo, è uno stile educativo. Allora io ti chiedo, oratorio ed educazione, queste due parole a Romano Dezzelino come vengono concretizzate? Cioè ci stanno bene insieme? Certamente è molto stretto, secondo me, il legame tra queste queste due parole, quando si pone l'accento appunto su un gergo un po' spinto di qualche giovane, come dicevo prima, ogni giorno frequentando, i giovani vengono aiutati anche in questo, quando organizziamo incontri con gli autori, e quindi abbiamo già fatto un incontro con un autore locale che ci ha parlato della Grande Guerra, oppure con Don Marco Pozza che ha parlato ai giovani in un modo particolare, altri autori che verranno prossimamente, che illustreranno un po' il loro modo di scrivere libri. Credo che facendo anche queste iniziative ci si possa diciamo porre al centro l'attività rivolta ai giovani e agli anziani, insomma. E Luca, in base alla tua esperienza, quale ritieni essere la maggiore difficoltà dei giovani oggi e la maggiore difficoltà degli adulti oggi? Guarda, secondo me penso che per gli adulti ci sia una crisi generale di valori. Di conseguenza a questo, i giovani sentono la necessità di avere dei punti di riferimento. In tutto questo credo che il centro parrocchiale, con le proprie iniziative, abbia un ruolo importante, dove i giovani si possono sentire protagonisti e gli adulti abbiano occasione di incontro e di costruzione di relazioni che vengono sempre un po' a mancare, insomma. Ecco, io qui ho un volantino davanti, prima accennavi appunto alla presentazione che avete fatto il 21 gennaio con Don Marco Pozza. Sì. La prossimo grande appuntamento è venerdì 9 marzo, perché ci sono addirittura tre, diciamo, pubblicazioni che voi in qualche maniera presentate e offrite, esatto, diciamo, a tutti. L'estate, che ho imparato ad andare in bici, a cura di Francesco Settin, Un sospiro per amore ed è subito poesia, a cura di Stefano Tosin, e Il canto dei grilli che toglie i pensieri, a cura di Sergio Moccellin. Quindi venerdì 9 marzo 2012 alle 20:45 presso il centro parrocchiale di Romano Zidalino, incontri con l'autore. Sì. E quindi è un'occasione anche questa importante, soprattutto per aprire un po' gli orizzonti, che tante volte sia da parte degli adulti che da parte dei giovani sono un po' limitati. Sì. Questa è un'occasione anche per riflettere. Ma ti chiedo, 10 anni quest'anno noi associazione li festeggia, perché si è creata nel 2002 e tante cose sono state realizzate. Di riflesso l'associazione nazionale, queste novità le ha portate anche negli oratori. C'è qualcosa che nell'oratorio di Romano Zidalino, diciamo, spinti un po' da questa ricorrenza, ma dico anche come obiettivo che vi siete prefissati per questo nuovo anno, volete, diciamo, un po' più approfondire un aspetto, vorrebbe dire un'attività, un'iniziativa, cioè dove investirete quest'anno, se ci avete pensato, maggiori risorse e, diciamo, disponibilità, creatività? C'è un aspetto che state coltivando, che da tanto tempo volete portare avanti? Guarda, abbiamo fatto l'incontro zonale a Atene con il direttivo dell'associazione Noi Padova, ed è stato posto l'attenzione sul discorso della formazione dei volontari, e credo questo sia un aspetto sicuramente interessante per il futuro da affrontare. Bisognerà sicuramente riprendere il discorso per chiarire bene il rapporto tra l'associazione che gestisce il centro parrocchiale e le parrocchie, e non per ultimo creare rete tra i vari centri parrocchiali. Noi qui nel nostro comune abbiamo 4 parrocchie e già ci stiamo muovendo in questo senso, ma credo che per il futuro sia importante fare rete tra associazioni dei centri parrocchiali, proprio per dare una spinta nuova, insomma, anche ai volontari. Molto bene. Luca, una curiosità: se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Se penso alla struttura del centro parrocchiale, un po' quella che è la nostra breve storia come associazione, mi viene da pensare un insieme di strumenti musicali, considerando la struttura del centro. Pensiamoli di vederli esposti tutti assieme, questi strumenti, ma sicuramente belli da vedere, ma per apprezzare veramente la qualità dello strumento e la bellezza, bisogna che ci siano delle persone che li prendono in mano e che li fanno suonare, questi strumenti. Credo che il centro parrocchiale possa essere una bella struttura da vedere, ma se ci vogliono delle persone che mettono del tempo, la propria passione, le proprie capacità per poter veramente apprezzare la struttura del centro parrocchiale. Luca, ultimissima domanda e ti ringraziamo innanzitutto per la tua disponibilità. Tu prima hai parlato di incentivare la rete, cioè la collaborazione tra associazioni, enti, eccetera. Sì. Ma il vostro oratorio, il vostro circolo Noi con voi di Romano De Zelino, sì, quali sono, diciamo, le principali collaborazioni che durante l'anno a cui voi praticamente vi affidate? Quali sono le realtà che vi danno sempre una mano e sono sempre presenti con voi nella realizzazione di questi eventi? Ma guarda, fin dall'inizio abbiamo detto che l'associazione Noi con voi che andavamo a costituire sarebbe stata un'associazione della parrocchia, su questo non c'era ombra di dubbio, che però non si sarebbe chiusa all'interno delle mura della parrocchia, per così dire, no? Tra virgolette. Per cui fin dall'inizio ci siamo aperti alla collaborazione con le altre associazioni di volontariato del territorio, quali Gruppo Alpini, Gruppo Aido, creando conferenze, appunto una la andremo a fare il 23 di febbraio, sempre qui in centro parrocchiale, con dei medici, organizzata insieme all'Aido. Abbiamo organizzato delle conferenze con le associazioni di categoria, come gli artigiani, rivolte appunto al problema della crisi economica, e ottenendo anche la collaborazione dell'amministrazione comunale. Per cui veramente abbiamo detto, cerchiamo di coinvolgere un po' tutte le realtà presenti nel nostro territorio per far sì che veramente il centro parrocchiale sia la casa della comunità. Luca, e infatti il vostro nome è già, diciamo, un progetto, ma io credo Noi con voi non è soltanto un nome, ma si sta realizzando concretamente, appunto, con queste collaborazioni che già si stanno instaurando e con le altre che si instaureranno in futuro. E allora da Anna Zampieri qua della CR e il sottoscritto Cristian ti ringraziamo tanto per la disponibilità, per la collaborazione e per averci offerto in questi pochi minuti un affresco abbastanza esauriente della realtà Noi con voi di Romano De Zelino. Grazie Luca e buona grazie giornata. Grazie. Ciao Cristian, ciao Anna. E noi continuiamo, Anna, con una nuova canzone, sempre, diciamo, scelta dagli amici della CR di Silea. Spero di pronunciare bene il nome, perché non si sa se è francese, inglese, americano. Comunque David Guetta con Without You, feature Usher. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. E ritorniamo appunto dopo aver ascoltato David Guetta. Quindi questi ragazzi sono proprio vivaci. Prima Laura Pausini, adesso hanno scelto David Guetta. Quindi una canzone italianissima e una canzone internazionale, una grande hit. E abbiamo già svelato chi sono, è vero Anna? Eh sì. E quindi penso che non ci resta che dare loro la parola a Fuori di Noi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo la CR di Ocisana, la CR di Silea. E siamo Elena, Sara, Giulia, Camilla, Agnese, Claudia, Alice, Maria Sofia. Noi veniamo da Silea. Veniamo dalla parrocchia San Michele Arcangelo. Il nome del nostro parroco è Don Mario Marostica e ha 60 anni. In parrocchia ci sono vari gruppi, il coro parrocchiale di Silea, il coro Arcobaleno di Note, del quale salutiamo la nostra direttrice Arianna, la Caritas e i gruppi famiglie. Noi facciamo CR la domenica mattina, dopo la messa delle 9.30, fino a mezzogiorno. Siamo in tutto 25, tra il gruppo delle elementari e quello delle medie. I nostri educatori sono Sara, Laura e Francesco. Nell'ultimo incontro della CR abbiamo parlato dei diritti dei bambini e abbiamo costruito il treno della pace, che abbiamo portato in giro per l'oratorio. Le attività principali alla CR sono la festa del ciao all'inizio dell'anno, la festa dell'adesione l'8 dicembre, durante la quale facciamo anche un pranzo con le famiglie, la festa della pace, Tiberiade, che è verso fine marzo, il convegno diocesano, che quest'anno sarà il 13 maggio, e un pranzo finale con le famiglie. Inoltre, nel mese della pace, facciamo anche un mercatino di torte con il quale raccogliamo dei soldi. I numeri degli aderenti alla C è di 40, di cui 19 tesserati alla CR, 21 giovanissimi, giovani e adulti, di cui salutiamo la presidente Sandra. La CR mi piace perché conosco persone nuove e faccio amicizia con tutti. Perché la domenica mattina posso passare il tempo con i miei amici e i miei educatori, divertendomi ma anche parlando di Gesù. Mi piace perché mi diverto molto e siamo in compagnia di altre persone che magari non conosciamo e ne facciamo conoscenza. Per questo mi piace la CR. Un'attività che mi è piaciuta molto è stata quella che ci ha permesso di capire che per arrivare a Gesù si possono percorrere diverse strade, alcune più facili e altre più difficili da percorrere, ma che dipendono dalla nostra personalità e dal nostro carattere. Una cosa che Gesù ci ha impresso è che tutti sono importanti, tutti hanno dei diritti, soprattutto i bambini, che in altri paesi hanno bisogno di aiuto, che non hanno niente né da mangiare né da bere, che lavorano e non giocano mai. Bravi anche i nostri amici di Silea, hai sentito? Siamo la CR diocesana, cioè la CR di Silea. Forse qua Anna, tu sei anche una delle responsabili, bisogna spiegare appunto che c'è anche la CR di Silea nella CR diocesana, ma le due cose non sono equivalenti. No, sono molto bravi, sono stati anche molto bravi, molto partecipi, molto anche numerosi. Veramente. Come la settimana scorsa abbiamo appunto incontrato gli amici di Spercenigo, anche loro avevano scelto qualche brano musicale, anche loro sono venuti qui alla radio, hanno appunto contribuito ad arricchire questo contenitore appunto dedicato agli oratori ma al mondo giovanile, ed è bello che ci sia appunto la CR, la loro freschezza, la loro gioventù, la loro simpatia. Quindi grazie agli amici di Spercenigo la settimana scorsa, grazie agli amici di Silea, della CR di Silea. Anna, ma sono troppo bravi sti ragazzi? Sì, bravissimi veramente. Anna, io credo che fra qualche settimana Eddie, sentendo questi contributi, ci dice: guarda Cristiana, potete anche spostarvi eventualmente, invece che loro registrano dei piccoli contributi, lascia fare a loro il programma. E sì, forse anche largo meglio, ai giovani. Largo ai giovani. Ogni settimana noi ci incontriamo a Fuori di Noi, ricordiamo un po' i nostri orari di programmazione. Allora, noi andiamo in onda su Blu Radio Veneto il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30. Se qualcuno vuole scriverci un'email, sì, può mandare un'email a fuoridinoi@libero.it. Oppure mandare un sms. Sì, al 320-6146-964. Ospite di questa puntata è stato Luca Donazzan del circolo Noi con Voi di Romano De Zelino, che ci ha un po' illustrato la sua realtà. Ma questa volta io vorrei concludere i saluti non salutando io, diciamo, tutti voi radioascoltatori, ma con i saluti che ci hanno preparato e sempre il gruppo ACR di Silea con i loro educatori che appunto sono venuti qui questa settimana e hanno, diciamo, concluso l'ennesima puntata di Fuori di Noi. Quindi io adesso saluto, ma do la parola a loro che salutano, diciamo, in maniera conclusiva, e ci risentiamo quindi sempre su queste frequenze di Blu Radio Veneto la prossima settimana. Ciao a tutti da Cristian ed Anna. Vogliamo salutare Veronica, Marina, Anna Chiara e degli ex educatori, la Bionda, Ema, la Anna e Cendra. E salutiamo anche la CR delle elementari e tutta la parrocchia di Silea, con Don Giovanni e il Sacrestano e Egidio. Punta in alto con la CR di Silea! Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.